Il sigaro piglia malissimo per questi sigari. No. No, ma... Sigarini, piccini? No, sì, ma lì è, ma che ne c'hai, oh? Donna è mia di cazzo. Scoppiato. Svarionato. Ci si fece un sigaro prima di entrare sul site. Che, che sbomba, poi la crema di whisky. Cioè, sei proprio di fuori, ma sai. No, stai no, proprio no, male. Vega, vega, vega. Elite, elite, elite. Una notte in città, è così in città. Come va nella tua cazzo di città, amico? Certi giorni, il cielo splende sopra i volti, la strada uno specchio, ho il riflesso del sole sugli occhi. È strano, come tutto è più strano, è chiaro. Noi viviamo per quello che abbiamo, donne con addosso più cari gioielli, escono insieme dall'emporio di Gucci nei negozi. La gente sorride facendo acquisti, comprano gli oggetti cari, rimanendo soddisfatti. Solo, ti senti solo, mentre vedi gli altri in giro. Voglio stare solo per pensare solo a ciò in cui credo. Piove, e la gente che in strada si copre, fa freddo, e tutto sembra più crudele. Il rombo dei tuoni, il tintinio della pioggia sui vetri, fra la nebbia delle auto, vedo il giallo dei lampioni accesi. Arrestano ragazzi in nome di stipidi vincoli, agli angoli dei vicoli, bimbi chiedono spiccioli. Dimmi come vivo, vivo, vivo, dimmi come passi i giorni, solo, in verità, la verità, in verità, in verità, in verità. Dimmi come vivi, vivo, vivo, dimmi come passi i giorni, solo, solo, in verità, la verità, in verità, in verità, in verità. La sapete parlare, le strade sono delle strade, lo sanno come si vive ogni giorno, che questo mondo lo vive dal fondo. A dire il vero, sono sia falso che vero, ma è vero che agli occhi degli altri sono straniero. I passi fatti, ho fatto i giusti passi, ma può darsi che mi passi mi portino a passi falsi. Dei passi degli altri non prendo nient'altro che avanzi. Se pensa a riempirmi la pancia, passo da pazzo con gli altri. Sarà certo un'idea mia, la mia follia di certo vado via. Se tutto è certo non ha senso, tutto questo in questi posti. Forse odio questi posti, ma sono nato fra questi palazzi. I nostri nomi sono diversi da tutto, il nostro sole non batte da un pezzo e questo mi rende bastardo. In verità, in città, la verità, in verità, la verità. Dimmi come vivi, vivo, vivo, dimmi come passi i giorni, solo, solo. In verità, la verità, in verità, in verità, la verità. Dimmi come vivi, vivo, vivo, dimmi come passi i giorni, solo, solo. In verità, la verità, in verità, in verità, la verità, in verità, in verità. Nell'aria sento l'odio di questa città. In verità si sa, ma niente cambierà. Pensi sia normale, fra la gente normale, normale. Credere a cosa si dice? Il male sale, i ragazzi sono criminali. Lo credi davvero? Davvero? Credi sia vero? Amico, tu non hai capito. È vero, beh, non chiedo niente nei tuoi occhi. Può darsi che mi sbaglio, può darsi che anche tu ti sbagli. Tutti lo sanno, ragazzo, nessuno ne parla. Cazzo se lo sanno, tu sei falso con te stesso. Facciamo la banda, rendiamo sto suono una bomba. Quello che conta è scavalcare sta cazzo di onda, sai? Mi viene da ridere a pensarci, anche tu fai una vita di merda. Anche tu non vorresti pensarci. Cosa pensi? Se lo sapessi lo direi ad entrambi. Ho talmente tanti cazzi che se piango potrei rimanerci. Dimmi come vivi, vivo, vivo, dimmi come passi i giorni, solo, solo, in verità, la verità, in verità, in verità, la verità. Dimmi come vivi, vivo, vivo, dimmi come passi i giorni, solo, solo. In verità, la verità, in verità, in verità, la verità. La sapete voi, cazzo. Vega, vega, è così, vega, vega, vega, vega, vega, vega, vega, vega, vega, vega, vega. Elite, elite, elite, la vive così, elite, la vive così, la vive così, la vita di strada. Ammi ragazzi, sono nato fra questi cazzo di palazzi, ragazzi. Nasci, Simo, eia, smile baby. Ed è così, vega, vega, ogni notte vega, vega, in questa cazzo di città. In verità, in verità, sento l'odio di questa città. Ehi, ehi, ehi, la gente sa come va.